figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Benvenuti da Valentina Furlanetto a questa puntata che sarà tutta dedicata ai gioielli etici. Gioielli quindi non insanguinati, gioielli che rispettano l'ambiente, gli standard di sostenibilità, e non parliamo soltanto di diamanti ma anche di oro e di pietre preziose, semipreziose. Per farlo abbiamo qui in studio con noi Francesco Belloni della gioielleria Belloni di Milano. Buongiorno a voi. Allora, lei si è inventato un nuovo business, prima con i diamanti etici, adesso l'oro. In che cosa consiste e come mai questa specificità della sua gioielleria? Beh, perché alcuni anni fa, anche diciamo pressato da amici e anche dall'opinione pubblica, nella quale diventava sempre più pressante il problema dei diamanti insanguinati, quindi appunto pressato da queste sollecitazioni sociali, diciamo, mi sono un po' stancato, diciamo, di vendere dei prodotti che non mi soddisfacessero appunto dal punto di vista etico. Perché non si poteva ricostruire la tracciabilità della filiera. Il problema dei diamanti è proprio quello che di nessun diamante lei può sapere la provenienza. Diciamo che il Kimberley Process prevede che i diamanti non provengano da zone di guerra, ma a parte che è stato violato nel merito più volte, però non mi dice il Kimberley Process se il diamante, non so, non è stato lavorato da manodopera minorile, cioè non c'è una tracciabilità. Il Kimberley Process è un'autocertificazione e quindi sostanzialmente è stato più volte violato e per me comunque non era soddisfacente. Quindi lei si è informato e ha trovato che in Canada invece si estraggono dei diamanti dei quali si può ricostruire la storia. Praticamente in Canada alla fine degli anni 90 hanno scoperto dei grossissimi giacimenti di diamanti. Due delle miniere che diciamo hanno aperto in quegli anni hanno deciso di rimanere indipendenti e di aderire a un codice di condotta che si chiama Canadian Diamond Code of Conduct, che prevede un severissimo controllo della filiera. Questo codice di condotta è stato stipulato col governo del Canada, che quindi lo controlla. L'obiezione potrebbe essere, ma il governo del Canada controlla le miniere del Canada, quindi no, controlla due delle varie svariate miniere del Canada. Alcune miniere immettono i diamanti nel mercato normale, queste due invece li mantengono separati dagli altri e quindi, incidendo sul bordo della pietra una fogliolina d'acero che è il simbolo del Canada, uno può essere certo che quel diamante proviene dal Canada, addirittura da quale miniera si può sapere in quale miniera è stato estratto. E si hanno garanzie sul fatto che siano stati tagliati, puliti nel rispetto dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori? Assolutamente, assolutamente. I diamanti del Canada vengono tagliati, parte in Canada perché la scuola di taglio è difficile da creare in così pochi anni, alcune pietre vengono tagliate ad Anversa o Tel Aviv, che sono comunque paesi in cui i diritti dei lavoratori sono assolutamente garantiti. Insomma. Costano di più dei diamanti tradizionali? Assolutamente no. Com'è possibile? Essendo la filiera certificata, è una filiera cortissima. Cioè tra me, che sono il dettagliante, e l'estrattore c'è un passaggio solo. E quindi in questo modo il prezzo è mantenuto assolutamente buono. E le vendite come stanno andando? C'è richiesta? Sì, sì. Diciamo che è un prodotto indubbiamente di nicchia, no? Quindi può essere che le grandi case, diciamo, di gioielleria non se ne sono interessate per quello. Diciamo che la scelta etica ha pagato sicuramente, perché ci sono persone veramente... La mia è una piccolissima gioielleria, quindi mai avrei potuto vendere, non so, persone di Roma, non so, di Bari, del Veneto, vengono veramente, o li invio in tutta Italia, e questa è una cosa bellissima. Perché per voi fate anche business, sì, online. Sì, sì, vendiamo anche online i nostri gioielli o le a pietre tutta sfuse. Sì, sì. Adesso voi proponete anche l'oro etico, che è assolutamente una novità. Fino a pochi mesi fa ci sembrava difficile riuscire a risolvere il problema, proprio perché l'oro il diamante è un prodotto finito, quindi del quale è possibile ricostruire facilmente una filiera. L'oro viene estratto veramente in tutto il mondo, poi fuso in lingotti, mischiando ovviamente oro di varie miniere, poi molto è riciclato, no? Quindi era veramente difficile riuscire, appunto, informandomi su internet. Anche qui ovviamente il cliente ha avuto un grande merito, perché mi hanno sollecitato proprio a trovare un discorso. Si ponevano la questione. Eh sì, certo. E allora diciamo che cercando su internet ho trovato questa Corporación Oro Verde, che è una cooperativa che si trova in Colombia, nella regione del Choco, che è una regione che si trova sul Pacifico, è una regione tra l'altro diciamo come molto ricca di biodiversità. Per estrarre l'oro normalmente si usa mercurio e cianuro, che sono sostanze ovviamente molto inquinanti e anche nocive per chi le lavora. Mentre invece in questa regione hanno la fortuna di avere un fiume in cui il lavoro fatto dal cianuro e dal mercurio, cioè di separare l'oro dalla roccia, è stato fatto nei milioni di anni dall'acqua, e quindi loro setacciando, come si faceva una volta, estraggono l'oro. La differenza è appunto che appunto non usano materiali chimici, e poi che i lavoratori della corporation, essendo una cooperativa, sono diciamo poi proprietari della miniera. Ecco, in questo caso, rispetto ai diamanti, anticipo forse una domanda: l'oro etico costa di più dell'oro diciamo convenzionale. Quanto di più? 100 grammi d'oro oggi costano circa 2500 euro, cioè costa 25 euro al grammo. Ecco, a me costa 2900 euro, circa 29 euro al grammo. Contro 25. Ecco, la diversità anche sta nel fatto che io ovviamente questo oro lo devo lavorare, non posso lavorarlo in modo industriale, quindi devo lavorarlo in modo artigianale. Il nostro Filippo Aureggi, che cogliamo l'occasione per ringraziare in regia, giustamente si poneva il problema della purezza sia dei diamanti che dell'oro, di quanto questo oro sia più o meno possa essere pari all'oro che compriamo nelle altre gioiellerie, sia per quanto riguarda i carati, sia per quanto riguarda la purezza. Ma l'oro che mi arriva dalla Colombia è oro 24 carati, cioè oro puro, e viene lavorato come viene lavorato l'oro diciamo di provenienza normale. Per quanto riguarda i diamanti è un po' lo stesso discorso, cioè i diamanti come quelli del mercato convenzionale sono più o meno bianchi, più o meno puri, più o meno grossi, ma in realtà sono assolutamente, il diamante è uguale al diamante sudafricano a quello del Canada, non c'è nessuna differenza. In Italia forse è l'unico che ha una gioielleria che si è specializzata ponendosi un po' i temi etici. È una questione che paga? Allora, diciamo che io, come dico spesso ai miei clienti, vivo in una situazione di felice monopolio, ma se vogliamo anche mio malgrado, perché è abbastanza triste questo. No, non so perché, diciamo, altri non mi hanno o seguito, o copiato, imitato, non lo so, forse perché il nostro ramo è un pochino conservatore, ma non parlo dal punto di vista politico, proprio come mentalità, e quindi vede questa differenza forse più quasi come un pericolo che come un'opportunità invece anche commerciale. Grazie Francesco Belloni della gioielleria Belloni. Grazie a voi. Abbiamo in collegamento il presidente di Assogemme, Paolo Cesari. Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Qualche tempo fa lei mi aveva annunciato che avreste messo in atto un protocollo per rendere etiche anche le pietre preziose che non sono i diamanti, cioè gli smeraldi, i rubini e anche i semipreziosi come i turchesi, le lapislazzuli. A che punto siete? Diciamo che lo stiamo formalizzando, nel senso stiamo un po' cercando di avviare un processo di autocertificazione, cioè ci stiamo dando una regolamentazione in maniera autonoma perché in questo momento non c'è questo tipo di realtà. Diciamo che esiste solo il protocollo di Kimberly. Che riguarda i diamanti? Esatto, come dire, cerchiamo un pochettino di anticipare i tempi e avviare un processo di culturizzazione del problema. Ma è un tema che vi arriva pressantemente dall'opinione pubblica, dalla clientela, come mai ve lo siete posto? Diciamo che siamo clientela anche noi, siamo pubblico anche noi e vogliamo affrontare questo progetto e questo problema in maniera coerente e anche in maniera sana, disciplinata, e con la cultura del cittadino e con la cultura del cittadino del mondo, poi sotto questo profilo qui. L'estrazione e la lavorazione di queste pietre preziose e semipreziose, che tipo di problemi etici comportano? Comportano tutti i possibili, dico, non tutti, i possibili problemi etici che riguardano il non conoscenza da dove vengono le estrazioni e come vengono lavorate le pietre. Insomma, ci sono degli esempi che ci può fare? Per quello che riguarda l'estrazione, la storia che è un pochettino più conosciuta è il discorso dell'estrazione dei rubini da parte di Myanmar, rubini insanguinati per capirci. Gli smeraldi invece per lo più da dove vengono? Gli smeraldi per lo più vengono dalla dalla Colombia, dal Brasile e dall'Africa. E anche lì magari possono ampliare il traffico di cocaina o quant'altro. Ecco, questo diciamo che è ipotetico, anche se non è sostanziale. Non esistono delle realtà già, come dire, scoperte o messe in luce sotto questo profilo. Turchesi e lapislazzuli? Turchesi crederei di no, perché i turchesi vengono quasi tutti dagli Stati Uniti, quindi sotto questo profilo qui almeno speriamo. No, non c'è questo problema. Per quello che riguarda i lapislazzuli, ovviamente ci può essere qualche problema a seconda dell'estrazione, cioè se l'estrazione è, faccio l'esempio, ai confini con l'Afghanistan o se è in Cina. Cioè in Cina ovviamente è un problema molto più controllato, nel senso che si sa da dove vengono e che tipo di ragione hanno. Il quarzo invece ha un altro tipo di problema, no? Quello della lavorazione. Sì, alcuni tipi di quarzi hanno le lavorazioni che per ora sono molto controllate, diciamo, però la manipolazione nei colori, quindi quando vengono colorate, a seconda del tipo di colorazione, pietre vengono bombardate e a seconda se sono bombardate ai neutroni o agli elettroni cambia un po' il tipo di procedura per toglierle da un problema di difficoltà o di pericolo, ecco. Senta Presidente, un'ultima cosa, poi chiudiamo e la ringrazio. Quando sarà pronto questo protocollo? Quando lo annuncerete? Sei, sette mesi, un anno al massimo ce la dovremo fare. Vabbè, speriamo che facciate in fretta. Io intanto la ringrazio. A lei di nuovo, buona giornata. Questa puntata sul gioiello etico termina qui. Io vi ringrazio per l'ascolto. Speriamo di essere stati utili anche in vista del Natale, muovendovi così fra i regali di Natale in maniera sostenibile. A tutti voi l'appuntamento è per domenica prossima alle 14:15. L'augurio di una buona giornata davvero da Valentina Furlanetto.